accende il mistero di mille stelle nel cielo, sulla chitarra un torero canta guarita per te. Bella dal volto di fata, scendi la notte stellata, dimmi che vale la vita se manchi guarita nel bacio d'amore. Sembra una rosa d'argento la pallida luna, sembra velluto guarita la pioggia bruna. Più di morena all'amor le tue labbra profagi, sul tuo bel seno colpirmi vanno le tue baci. Rambla fiorita, torni stasera con me, e in questa notte guarita mi sento schiavo di te. Parla alle stelle d'amore, bacia, sospira il mio cuore, che nell'arena gremita domani la vita per te giocheremo. Sembra una rosa d'argento la pallida luna, sembra velluto guarita la pioggia bruna. Più di morena all'amor le tue labbra profagi, sul tuo pensiero per dirmi vorrò le tue baci. L'amor le tue labbra provati, sul tuo bel seno per dirmi l'orrore dei tuoi baci.